Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A Marghera però ne avevamo presi 30. Troppo scarto. Ci aveva massacrati Bordignon, uno fortissimo, che aveva il record dei punti segnati in C per tutta la nostra regione. E anche per quello che ci teniamo alla partita di ritorno. Magari si perderà, ma non faremo brutte figure. O almeno ci proveremo. Ciao a tutti, sono Cristian, ho 39 anni, abito a Verona, sono innamoratissimo della pallacanestro, convivo e ho una bambina di 10 mesi. Io non ho mai fatto una promessa a nessuno. Non ho mai detto vi prometto che diventerò la numero uno. Non l'ho mai detto. Non l'ho mai nemmeno pensato. Fino a oggi non sono stata io a vincere quelle partite. Io non sono una che vince. Sono una che si sloga un polso per non giocare. Una che è terrorizzata all'idea di perdere. Quella che vince non sono io. Non lo so chi è quella, ma non sono io. Io a quella non posso nemmeno rivolgere la parola, perché se divento lei, lei perde. Sai quando devi spegnere le candeline per il compleanno? Quando sono lì sulla torta con tutte le persone intorno che ti guardano e si aspettano che tu le spenga tutte in un colpo solo. Hai presente? Ecco, quando sei piccolo le candeline sono poche ed è facile spegnerle tutte, perché sono due, tre, quattro massimo. Quando cresci però le candeline aumentano e a un certo punto hai 10 anni e sembrano tantissime e tu non hai ancora abbastanza fiato per spegnerle tutte. Ma i parenti intorno lo danno per scontato. Non sanno loro che fatica devi fare per spegnerle in una volta sola. E se ne rimane accesa qualcuna, sì, puoi sempre riprendere fiato e soffiarci sopra come se niente fosse, ma non è la stessa cosa. Anche se fai finta di niente, tutti si sono accorti che non ce l'hai fatta. Ed è come se tu fossi venuto meno a una promessa. Sì, lo so che sembra una stupidata, ma quando sono rimaste accese 2 candeline il giorno del mio 11° compleanno, ho sentito di avere deluso qualcuno. Non so nemmeno bene perché e chi, ma tutti quelli che si aspettavano che io fossi capace di spegnerle tutte d'un colpo. Quando gioco a tennis devo vincere, non ho scelta. Non posso pensare di perdere. Non posso proprio pensare. Se penso, penso di perdere. Sono le 16:10 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e quando ho scritto questa cosa che vi ho appena letto qualche anno fa, l'ho scritta proprio in occasione di una sconfitta, di quelle sconfitte che capitano a tutti, no? Quando si parla di sport. Oggi si parla di sport, di basket e di sconfitte in generale grazie a un racconto di Cristian. E quando ho scritto questa cosa non era il basket, quello di cui parlavo, era il tennis, e questa cosa mi è tornata in mente qualche anno dopo, esattamente qualche mese fa, mentre stavo scrivendo il libro, stavo scrivendo un libro che è uscito da poco e l'ho attribuito a una ragazzina, ma di fatto è una cosa che riguarda me, e quindi lo trovate, anche se è solo una parte piccola di quel racconto, di quella storia, e anche se non ha nulla a che fare con il titolo, che è Il nostro fuoco è l'unica luce, però questa parte qua di questa ragazzina che è obbligata a vincere e che non può perdere mai. E non può nemmeno pensare di perdere, perché se pensa a perdere, è una parte credo che appartiene a tutti noi e tutte le volte in cui abbiamo giocato a qualche sport. È successo a Carla, infatti, che mi scrive sul profilo Facebook, 13 anni, tennis, perso, 6-0, 6-0, 6-0. Il maestro mi viene vicino dopo la partita e mi dice, forse il tennis non è per te. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, ma anche il profilo Facebook è sempre quello, è Matteo Caccia, io sono qui. Oggi si parla della più grande sconfitta della vostra vita. Marco, ci presentammo in 9 a giocare. Dopo pochi minuti perdemmo un giocatore per infortunio. Eravamo 11-0. Su ordine del mister mi feci espellere per far finire la partita, perché il regolamento prevede almeno 8 giocatori in campo. E poi ancora, dov'è? Eccolo qua. Gustavo, finale regionale di nuoto, 100 metro dorso. Ero il favorito. Invece che virare, ho tirato una zuccata. Quarto, 349-238-6666, la peggior sconfitta della vostra vita. Quella di Cristian non è stata una sconfitta, ma più tardi ce n'è un'altra. Campionato 2003-2004, Serie C2. La mia squadra è il Tosoni di Villafranca. come in tutti i tornei sportivi ti capita sempre di dover incontrare la più forte, la prima in classifica, quella che devi solo perdere con dignità. A noi tocca il Lardunar Marghera. Loro sono i più forti e alla fine dell'anno passeranno di categoria. Ci hanno già battuto all'andata. Noi siamo intorno al quinto, sesto posto, non siamo male. Facciamo quello che si deve. Battiamo quelle più deboli e perdiamo con quelle più attrezzate. Il fatto è che però a Marghera ne avevamo presi troppi, 30 di scarto. Non ci aveva fatto piacere. Ci aveva massacrati Bordignon, uno fortissimo, aveva il record dei punti segnati in C per tutta la regione. È anche per quello che ci teniamo alla partita di ritorno. Magari si perderà, ma non faremo brutte figure. O almeno ci proveremo. Io parto da calciatore, però verso i 17 anni mi innamoro della pallacanestro e per il livello che ho fatto, e da 18 anni ho giocato fino ai 34-35, ecco, ho giocato parecchio, insomma, varie categorie, dalla promozione fino alla C2. Io sono un panchinaro. Per chi non è pratico di basket, devo dire che chi parte in panchina non è detto che non giochi, anzi capita a volte che giochi più di qualche titolare, perché i cambi sono liberi e si può entrare e uscire a ogni fischio dell'arbitro. Siamo in 12 e cominciano i primi in 5, i più forti. Poi però, a seconda di come va la partita e per non lasciare il campo giocatori troppo stanchi, dalla panchina escono le seconde linee. Ecco, io sono di quelli. Un gregario. Uno che dà fiato a un compagno più forte. Ma anche se giochi in quel modo lì, quando sei in campo, sei in campo. E non c'è verso di nascondersi. In quella partita ci va tutto per il verso giusto, fin dall'inizio. Grande difesa e fortissimo attacco. Martari, Ceriani, Schiona in formissima. E poi, sublime prestazione di Sandrone Boni, uno che molti anni prima aveva vinto uno scudetto nella Scavolini. Ci faceva da chioccia. Riusciamo a evitare che loro scappino e rimaniamo punto a punto per tutta la partita. Il trucco è non pensare ai canestri subiti, ma concentrarsi solo su quelli da fare. Uno sport in cui tutti devono difendere e tutti devono attaccare non lascia spazio per abbattersi. A metà del secondo tempo siamo ancora in scia. Non li lasciamo andare via e combattiamo su ogni pallone. A 4 minuti dalla fine c'è il quinto fallo di Sandro. E dopo il quinto fallo non si può più giocare. L'allenatore si gira verso la panchina e mi guarda. E va bene, tocca a me. Sono io il cambio del suo ruolo. Lo so. Però aspetto che lui me lo dica. Ma lui non me lo dice. Mi fa solo un gesto. Io lo so che non ho vinto nessuno scudetto, ma che ci posso fare? Questo è uno dei ruoli fondamentali che mi piace di più della pallacanestro, cioè del gregario, colui che magari sta in panchina ed è chiamato a sostituire i più forti, i titolari, e in un momento clou della partita dove magari il titolare è uscito per falli, perché mi sembra che aveva fatto 5 falli il mio compagno che giocava titolare, io entro in campo e riesco a fare una giocata decisiva che poi ci ha fatto vincere la partita. Sono in iperventilazione, mi tolgo la tuta e mi siedo sulla sedia del cambio, il cuore in gola e l'ansia dei minuti decisivi. Io di solito queste fasi di gioco le ho sempre viste dalla panca. E come faccio? Entro e do il 5 a tutti, cerco di darmi coraggio. Sono fresco e riposato mentre i miei compagni sono a pezzi, hanno gli occhi sgranati, allora faccio la mia parte e mi metto a combattere. Tengo botta da buon gregario, ma a 40 secondi mi perdo l'uomo che mi segna 2 punti in faccia. Ennesimo pareggio a quota 80. Capisco che ho sbagliato, ma vedo che il mio allenatore non si dispera e mi incoraggia. È giusto così, tanto ormai in campo ci sono io. Dopo un paio di azioni dove non segna nessuno, abbiamo la palla in mano a 8 secondi dalla fine. Max Gironi porta la palla. Io non la vorrei nemmeno vedere. Me ne sto vicino al canestro, cercando di lasciargli tutto lo spazio per tirare. Ma lui inciampa. E prima di cadere, spara la palla al primo che vede. E il primo che vede sono io. Manca un niente. Ricevo, mi giro e tiro. E segno. E vinciamo la partita. E non vi sto a dire la gioia. Quando ci siamo calmati e siamo usciti dalla doccia, il mio coach, Zangani, mi viene vicino, mi dà una pacca sulla spalla e mi dice che me lo merito. Il fatto è che però io non lo so se alla fine era vero. I fell on the playing field, the work of an errant heel, the din of the crowd and the me praticamente esistono solo il calcio e il tennis. Nel senso che ci sono tantissimi altri sport molto belli, però siccome so giocare solo questi, io più o meno parlo solo di calcio o di tennis, perché sennò ho paura di dire un sacco di stupidaggini. Ci sono sport di cui non conosco nemmeno bene le regole, il rugby per esempio. Cioè, del rugby so che si può passare la palla solo indietro e per il resto mi sembra che valga tutto, però sono talmente sicuro che non sia così che non ci provo nemmeno a dire qualcosa. Ecco, c'è però l'eccezione del basket. Perché quando ero piccolo, a basket mi ci hanno fatto giocare. Ero alto e allora sembrava giusto che ci provassi. Non avevo nessun talento ed era chiaro, però il gioco era divertente e i miei amici erano forti. Allora per un anno andai a giocare nelle giovanili della Romentinese, categoria allievi, che è quella dei bambini sotto i 14 anni. Io non giocavo quasi mai quando c'erano le partite, però mi divertivo molto agli allenamenti perché il mio allenatore era un ragazzo buffo, fumava tantissimo e si innervosiva se palleggiavamo troppo tutti insieme. In squadra eravamo quasi in 20, ma alle partite si andava in 10 e io non ero mai tra quelli, per cui me le vedevo tutte dalla tribuna, tranne il giorno in cui abbiamo fatto un amichevole contro l'Olimpia di Milano, che non mi ricordo se all'epoca si chiamava Treser o Philips, che però aveva una bella maglietta rossa e dei ragazzoni alti 2 metri. L'amichevole era una partita per beneficenza e noi eravamo stati invitati a Milano a giocare al Palalido perché avevamo partecipato a una specie di concorso. Era una cosa bellissima, però tutti se la facevano sotto dalla paura, perché giocare contro di loro significava perdere tantissimo a pochissimo e a nessuno mai piace perdere tantissimo a pochissimo. A me non me ne importava niente perché tanto io stavo in tribuna e quindi mi potevo godere la gita a Milano. Vabbè, per farla breve, il giorno prima della partita pareva che ci fosse un virus intestinale nel paese. Metà della squadra si era data malata. Io non so se il virus poi c'era davvero o se i miei compagni che dovevano andare in campo semplicemente avevano fatto finta, ma rimane il fatto che l'allenatore fumatore chiamò i miei per dirgli che sarei stato convocato tra i 10 per il giorno dopo. Io ero eccitatissimo perché per fortuna non capivo niente. E quando arriviamo al Palalido mi sembra di essere una star dello sport. Mi cambio, vado in campo a fare il riscaldamento. Dall'altra parte ci sono sti cristoni grandi e grossi e qualcuno che schiaccia pure, mentre noi siamo gente che gioca a basket per divertimento. Loro credono di poter diventare dei professionisti e noi paghiamo ancora i palloni con cui ci alleniamo. La mia incoscienza però mi aiuta e quando il nostro allenatore ci chiede come stiamo e ci vuole infondere un po' di coraggio, io dico che sto benissimo e che vinceremo questa partita. E allora lui mi prende come esempio e mi dice che a questo punto entro subito in quintetto base. Io sono felice e aspettino che alzino la palla 2. Ovviamente la vincono loro, però io sono nel punto dove la palla cade e la prendo. Non aspetto nemmeno che i miei compagni vengano in attacco. Mi giro verso il canestro, faccio un paio di palleggi e tiro. E segno, come fosse una cosa normale. Io che non segnavo nemmeno in allenamento. 2-0 dopo 4 secondi di partita. Fischio dell'arbitro e minuto di sospensione chiesto dall'allenatore dell'Olimpia. Noi andiamo verso la nostra panchina e stiamo praticamente tutti girati verso di loro perché non ha senso chiamare un minuto di sospensione dopo 4 secondi di partita. E allora lo vediamo molto serio, che guarda i suoi ragazzoni e dice poche parole e si sente tutto benissimo perché il palazzetto è completamente vuoto e silenzioso e dice: «Uè, questi giocano, eh?» Finale. Non abbiamo più segnato un canestro, ma non per qualche minuto, per tutta la partita. Ci hanno fatto una difesa pressing a tutto campo per 40 minuti e noi non riuscivamo nemmeno ad arrivare a tirare. Abbiamo perso 126-2, seriamente. Il mio amico Cosma Gallina, che con quel nome faceva meglio a stare zitto, mi ha pure detto che era solo colpa mia. Mi ha detto che era colpa mia se i suoi genitori l'avevano visto fare una figura così, perché io li avevo fatti arrabbiare. Ma io cosa dovevo fare? Mi era solo cascato il pallone tra le mani e ho fatto l'unica cosa che dovevo fare. Ho tirato. I don't need an explanation where there isn't one. Wheels and cogs in motion, relentlessly rolling along. Dear Molly, this cloud could well be. E non sono gli unici, cioè non sono l'unico ad aver avuto sconfitte come queste. Laura, mini basket, torneo provinciale 102-8. Il mister a fine partita ci disse, e a ripensarci mi fa molta tenerezza, non avete giocato male. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. C'è qualcuno che invece quella partita l'ha vinta ed è Cristian. Pronto Cristian? Ciao Matteo. Come ciao, stai? A tutti. Bene, dai, bene, sto bene. Come dai? No, sto abbastanza bene, dai, sono su di giri, anche se non gioco più a pallacanestro adesso ufficialmente, agonisticamente, ma mi manca molto questo, ma... Cosa fai nella vita, Cristian? Cosa fai? Io sono sottufficiale dell'aeronautica. Quindi lavori in caserma? Sì, esatto. Ma caserma aeroporto? Come funziona? Esatto, sì, a Villafranca. A Villafranca, ok. E cosa fai, esatto? Cosa fa un sottufficiale dell'aeronautica? Voli? No. Beh, ci sono mansioni anche di volo, però le mie riguardano più le pratiche di ufficio, ecco, diciamo. Okay. Non sono mansioni operative. Ma sei in ufficio in questo momento? In questo momento sì. Quindi sei in divisa? In questo momento sì. La divisa dell'aeronautica com'è? Blu? No, quella marina. È azzurra, con le maniche corte. Con le maniche corte? Sempre? No, adesso che Ok. Ma scusa, periodo estivo. Quindi quella della marina è blu scura, giusto? Quella della marina è bianca la camicia e poi i pantaloni sono sempre blu scuri. Ok. E però è una camicia azzurra. Vabbè, ok, basta parlare degli abiti dell'aeronautica del lavoro, e esatto, della marina, e veniamo a quella partita. Senti, quella partita lì era quanti anni fa? Questa è stata nel 2004. Vabbè, nemmeno tantissimo tempo fa. Ed è un po', mi ha ricordato, c'è un film famosissimo sul basket di questa squadra del college che arriva all'ultima partita, credo si chiami Indiana, una roba del genere. Sì, però adesso mi spiazzi con questa. Ma hai capito qual è, però, perché... vero? Hai capito? Sì, che c'è Indiana e un'altra squadra che arrivano all'ultimo, esatto. Giro, sì. Perché sembra veramente quella storia lì, no? Quella che tu ti trovi la palla in mano, tutti ti guardano e tu dici. Perché io non ero stato scelto per arrivare allo schema a tirare in quell'occasione lì, erano altri che dovevano per rendere il pallone. Lei in quell'occasione ha perso un po' il controllo e praticamente anziché buttare il pallone magari fuori ha preferito darla a me che ero più vicino e io ho dovuto tirare, non ho avuto altra scelta. Senti Cristian, insomma, quella serata lì è stata elettrica fino alla mattina dopo, insomma. E ancora adesso, se ci pensi, di la verità. Quando hai letto prima il brano, non nego che mi sono venuti i brividi, ecco, perché ricordo, appunto, è stato un po' l'aig della mia carriera cestistica. Senti, però Cristian, c'è un aspetto di grande consapevolezza nel tuo racconto, quando parli dell'essere gregario, no? Per cui dici, c'è una forma, è una forma di accettazione dei propri limiti, che mi sembra in sé una bella filosofia. Sì, oltre a quello io dico che in una squadra non possono esserci tutte prime donne, cioè deve esserci anche chi accetta, pur magari essendo anche in grado di poter partire in quintetto o di dare anche 20 punti, di fare il titolare, però deve essere un momento, magari se sei un po' più vecchio, a fine carriera, oppure in circostanze varie della tua carriera, devi accettare di dare magari 10 minuti, però darli fare tutti. Due punti o un blocco, sì. Insomma, fare un lavoro che in quel momento lì bisogna fare per poi ritornare a sedersi e a incitare i compagni. Cristian, senti, io ti devo salutare, ma più tardi, per l'occasione, cioè per il tuo racconto e per mettere in piedi questa puntata, abbiamo sentito Mario Boni, che sarà al telefono in diretta. Mario Boni, il più grande realizzatore del basket italiano. Lo conosco molto bene ed è un onore per me essere, insomma, nella stessa puntata di lui. Ecco. Guarda, sei nella stessa puntata per merito tuo, abbiamo contattato lui per il tuo racconto, quindi grazie a te, rimani ad ascoltarti Mario Boni, in bocca al lupo per tutto, Cristian. Grazie a voi e complimenti. Grazie, ciao, buona Matteo. Serata. Voi siete qui. Agli occhi azzurrissimi e una faccia perplessa Cristian nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. Una t-shirt bianca e alle spalle... Non capisco perché sembra un museo, deve essere una di quelle foto che ti fanno un po' a tradimento e c'è alla destra un drappeggio, come un tendaggio blu pesantissimo di velluto e un lampadario di quelli molto barocchi che si trovano nelle case che diventano un museo. Non so dove sia, ma la faccia perplessa gli rimane. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Però voglio fare una precisazione per tutti quelli che mi chiedono quando è il live di Voi Siete Qui e come funziona. È molto semplice: il live è martedì 19 giugno alle 21, qui dalla Sala Collina di Radio 24, via Monterosa 91 a Milano. Quindi dovete venire a Milano, semplicemente. L'ingresso è completamente gratuito. Per prenotarsi basta che andiate sul sito di Radio 24, e succedono due cose quando andate sul sito di Radio 24. La prima è che vi appare una finestra dove potete scaricarvi l'ebook e dove potete votare il racconto tra quelli scelti per l'ebook, quindi sono un centinaio, che vi è piaciuto di più. Quella cosa ci serve perché noi sceglieremo attraverso questo sondaggio i 5 racconti che più vi sono piaciuti o che vorreste semplicemente risentire, e li riproporremo durante il live. Li rileggerò, li amplierò, ci sarà chiaramente qualche cosa di più, vi racconterò delle cose mie, avremo delle persone, le persone probabilmente protagoniste di quei 5 racconti presenti. Questo per quanto riguarda il sondaggio. Per partecipare, invece, per prenotare, andate in fondo alla home page di Radio 24 e trovate proprio un boxino con quella faccia, con quella foto orribile mia, con una faccia larga così e una maglietta rossissima. Compilate quel form e inserite i vostri dati, nome, cognome, eccetera eccetera, lo stampate e vi presentate direttamente il 19. So che ci sono già molti prenotati, quindi non dico di correre, però tenetevi liberi il 19. Quando sapete che siete liberi, prenotatevi, perché i posti non sono tantissimi, sono 500 e insomma, se non siamo a metà pare già quasi. 349-238, questo per il live. 349-238-6666 invece per parlare della puntata di oggi, che parla delle grandi sconfitte. Ne sono arrivate un paio, non male, che parlano di basket. No, questa è di baseball. Sabato abbiamo perso 22-10 a baseball e abbiamo fatto una grande festa perché stiamo migliorando. Olè. E poi ancora, qualcuno mi scrive che il film di cui parlavamo si chiama Colpo Vincente, è un film che parla del basket. E poi ancora, nel 1983 giochiamo la prima partita di basket contro gli avversari, Seggiano Settala o Settala, o non azzecco un accento secondo me oggi, anche prima devo averne infilato uno orribile. Finisce 2-84, eravamo felici per aver giocato una partita vera. Gianluca, PS, ho dimenticato di specificare che io giocavo nel Seggiano, quindi quelli di due punti. Non so se anche ai grandi dello sport succede di perdere tanto a pochissimo, forse Mario Bone lo sa meglio di me. Pronto Mario? Ciao Matteo, buongiorno. Come stai? Tutto bene, sono in macchina ascoltandoti. Grazie per essere qui e soprattutto Mario, grazie per essere qui in un orario che è diverso dal tuo, visto che di solito sei in onda con Carlo Genta attorno alle due esatto. E mezza. Però stai andando a lavorare, stai andando a giocare? Ma a dire il vero sto accompagnando un amico alla stazione e sto facendo anche di fretta. Ah, benissimo, allora non ti tengo troppo. Ti è capitato di perdere tanto a poco, Mario? Sì. Guarda, mentre sentivo le tue parole ricordo tanti anni fa, quando avevo 10 anni, i primi anni che giocavo a basket con la squadra dei giochi della gioventù di Codogno, provincia di Lodi, perdemmo nel concentramento di Milano 103-5. Lo ricordo ancora perché ogni tanto con qualche mio vecchio amico, adesso chi fa il medico, chi fa il geometra, ci ricordiamo di quella sconfitta e non ho neanche fatto un canestro io quella partita. Che cosa si fa quando c'è questa manifesta superiorità? Cioè uno cerca di arrivare alla fine? Ma guarda, gli episodi negativi sono stati, beh, quando sei piccolo pensi che magari non è quello il tuo sport. Mi è capitato adesso, ricordandomi, un'altra sconfitta pesante contro la Benetton, che è una squadra troppo forte, perdemmo di 40 punti. Lì c'è una sensazione, come dire, speriamo che non ci facciano altro male, che siano buoni, che smettano di infierire. Ecco, perché scusami, un'altra cosa è, a te invece sarà capitato di vincere tanto tanto a poco, no? Di dare tanti punti di distacco a un'altra, sì, squadra. C'è a un certo punto la sensazione di dire forse è meglio fermarsi adesso, forse è meglio non infierire? Succede che perdi un po' la concentrazione. Basket, come lo sport professionistico, hai sempre bisogno di grandi stimoli, grande concentrazione. Succede invece quando hai un grande distacco, un grande vantaggio, quando ti senti nettamente superiore al tuo avversario, che stacchi leggermente la spina. Non hai più quella cattiveria, quella agonistica, quella determinazione che di solito c'è quando inizia la partita. Senti, Federico scrive: grandissimo Boni, è il mio mito sportivo. Gli chiedete quando gioca la finale contro 100 e quali sono le sue sensazioni? Ma guarda, bravo, noi giocheremo, cominciamo a fare la finale sabato, sì, in casa di Cento, che ha fatto una stagione straordinaria, e ti dirò che questa è la mia 16esima, credo, 17esima finale, che per coppe e promozioni. Sì. Però è come ogni, è come far l'amore la prima volta, no? Quando giochi una finale le sensazioni sono sempre magnifiche, ed ecco perché a quasi 49 anni continuo a giocare e continuo a emozionarmi come se fosse la prima volta. Perché questa di fatto è la notizia, Mario, per chi non la sapesse, che tu a quasi 49, diciamo, non 50, a quasi, esatto, 49, fermi, a quasi 49 giochi ancora a basket, quindi giochi tutti i fine settimana, immagino, ti alleni quante volte a settimana? Guarda, io mi alleno 3-4 volte più la partita. Io la cosa strana è che in questa squadra io sono anche direttore sportivo, vada bene, non allenatore, sono direttore sportivo, quindi ho scelto anche l'allenatore, e questa è una situazione che mi pone un po' in conflitto di interessi. Infatti il tuo sorriso conferma quello che provano tutti, no? Ma però d'altronde bisogna considerare che la mia età mi dovrebbe portare anche un po' di saggezza. Beh, no? direi di sì. Ma guarda, a questo proposito, e poi ti lascio, non vorrei far perdere il treno al tuo amico, io mi ricordo, a proposito di grandi campioni, visto che ricordiamo, tu sei il giocatore che ha segnato di più nel basket italiano, e quando c'è il suffisso di più davanti a qualcosa mi viene sempre un po' da ridere, perché uno, no, è sembra talmente seria la cosa che uno deve scherzarci un po' su. Una volta ho sentito un'intervista a Eto'o che parlava della sua seconda finale di Champions, e lui dice: io ero l'unico giocatore che aveva già vinto una finale di Champions e tutti in squadra guardavano me. Quando tu giochi a basket adesso, con tutto quello che hai vinto, con tutti i punti che hai fatto, hai la sensazione di avere gli occhi addosso dei tuoi compagni? Ma prima di tutto io sono il primo come media punti del campionato di tutti i tempi del campionato italiano, prima c'è Riva, poi c'è Carlton Miles come punti segnati. Okay. Precisazione, ma io ti dirò, effettivamente sono sempre stato un giocatore al quale i miei compagni guardavano per avere una risposta visiva di fiducia nei loro mezzi, no? Okay. Come dire, ecco perché in tanti frangenti il gioco di squadra non devi mai dimostrare di avere anche qualche problema fisico, eccetera, perché sei preso come esempio, no? come esempio, come modo di proporti di fronte a un grande impegno sportivo, un grande match, e quindi va al di là della concentrazione, va anche proprio a toccare certe corde di volontà, di voglia. Chiaro. Di soffrire, di tante situazioni molto belle. Chiaro. Mario, ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per le finali allora. Grazie, viva il lupo, e ciao ancora, complimenti per la trasmissione. Grazie anche a te, ciao Mario, grazie mille. Avevo 15-16 anni, giocavo nella Mauri classe 74 e non 75, solo per quelli del 74. Erano i più scarsi ed io ero scarsissimo in tutto il campionato, ho fatto solo un punto su tiro libero, roba da sfigati, ma in tribuna c'era mio papà, ecco, l'unico punto l'ho fatto per lui. Grazie a lui, grazie a tutti quelli che hanno partecipato anche oggi. La storia di oggi era la storia di Cristian e parlava di sconfitte. Quella di domani è di Livio e parla di essere bambini campioni. Sembra un adulto. Passa il tempo a guardare attentamente in pista i piloti più grandi, senza mai parlare, senza dire nulla di più di quanto serva al meccanico per la sistemazione del go-kart. Si prepara per il turno, guida e al rientro ripete sempre inesorabilmente gli stessi gesti. Lo chiamo e cerco di smollare la tensione. Fede, stai tranquillo, sappiamo che è quasi impossibile, rilassati. E lui mi risponde: papà, vinco io.